24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Chi, come il partito della sinistra libertà, siccome hanno altre idee molto più importanti secondo loro di quello che riguarda la sicurezza dei cittadini, per loro è importante vedere se c'è il matrimonio tra lo stesso sesso, se c'è l'adozione tra lo stesso sesso, per cui invece di chiamarsi sinistra libertà si chiamassero sodomia e libertà, perché no, nella cortesemente deputato, deputato, deputato, deputato, io la prego di utilizzare un linguaggio consono a quest'aula. Sodomia e libertà. Deputati, cortesemente, deputati, deputati, deputati, deputati. Vieni qua te, che cazzo vuoi? Sodomia e libertà, così è finita in rissa verbale dopo che il leghista Buonanno, uno che ci ha abituato a queste cose, ha detto, ha preso la parola alla Camera e l'avete sentito, ha detto altro che sinistra e libertà, pensano solo ai matrimoni tra omosessuali, si chiamassero sodomia e libertà. Risultato? Espulso! Buonanno, espulso dall'aula. Va bene, questa è 24 mattino, sono le 6:32 minuti, c'è Alessandro Longoni in redazione. Sì, c'è... sì, non ce la contabile per Milan, sei proprio un coglione. Ma è possibile che sei un pirla così lavori in radio? E il mondo va così. Vabbè, pazienza. Vabbè, vabbè. Allora, voglio salutare subito, oltre al nostro alpino in regia, Peter Bescapè, i nostri vincino intanto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Oggi ho da farvi sentire, non è finita, perché guardate che c'è un documento che devo far sentire dal Parlamento Europeo, una roba che non ci potete credere, non ci potete credere. Insieme a Vincino, con direttore del Male, insieme a Vauro, abbiamo Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, eccoci qua. Buongiorno. Allora, sodomia e libertà, Vincino, questa manca una vignetta, tu arrivava tanto, eh? Ogni legislatura c'è il suo proprio buffone d'aula praticamente, il suo istrione d'aula che fa divertire a tutti. Pensa che Buonanno in un altro audio, quando gli danno la parola gli hanno detto, mia mamma mi dice sempre, Gianluca, fai il bravo oggi, quando parli alla Camera, sì, fai il bravo. Maurizio, che ne pensi? È finito. Poi dicono che in Parlamento non succede mai nulla, sono sedute grigie, tutti seduti lì negli scranni, sodomia e libertà. Questo. È triste, direi che... Abbastanza. È triste, sì, fondamentalmente triste, non trovo altri aggettivi. No, si ride per buttarla nel sorriso. Mi viene in mente quello che mangiava la mortadella quando cadde Prodi. Cioè, sì, sì, lo champagne, la mortadella, sì. le sodomia e libertà. E poi è finita così. Ma vieni qua te, ma vieni te qua, ma con una rissa, tenetevi, da salute. Tenetevi. C'è... poi è carino anche quel cortesemente, questo giovane vicepresidente di 5 Stelle che non sapeva come fare. Sì, sì, il linguaggio consono all'aula. Cortesemente, io in generale non lo sento in pubblico così, cortesemente. Da quale parte d'Italia si usa questo linguaggio burocratico? Sì, però dopo il cortesemente è finita un po' male. Di Maio, che era il presidente di turno del Movimento 5 Stelle, poi invece l'ha richiamato perché sono apparsi dei cartelli, c'è stata l'espulsione. Colleghi, abbassate i cartelli. Chiedo di intervenire cortesemente. Colleghi, abbassate i cartelli. Colleghi. Ha detto ancora, cortesemente. Deputato Polano, la richiamo all'ordine. Vabbè, qui finisce in rissa verbale. L'ha detto ancora cortesemente, Vincino. Sì, cortesemente abbassate i... Vabbè, è gentile. C'ha due commessi che gli dicono però tutto quello che deve fare. Lo così, quell'altro, se uno sente bene, perché io lo sento come rumore di fondo, c'ho sempre la televisione accesa sul Parlamento. No? Ah, già, è vero che segui tutto. No, proprio, sono, ho delle malattie. professionali. È una malattia, segue Vincino, è vero che segue tutto quello che succede in Parlamento, ma quello che è successo al Parlamento europeo non l'avrei assolutamente sentito. Creiamo un attimo l'attesa. Pittella lo conosco da parecchio. Infatti, ma adesso tra poco lo facciamo sentire. Prima, allora, ieri sì. Maurizio Tortorella, abbiamo parlato del paese ingessato, oggi Panorama fa la copertina, anche voi però, tagliate la spesa pubblica. E basta, tanto non si fa niente, è inutile, rassegnatevi anche voi. Quello che è successo alle province, hai ragione. Oggi abbiamo parlato del paese bloccato, la Corte Costituzionale ha stabilito che non si tagliano le province con un decreto legge, visto che il decreto legge prevede l'urgenza e invece bisogna cambiare la Costituzione. Per carità, sa che molti, Maurizio, mi hanno scritto, ma un studente di primo anno di giurisprudenza l'avrebbe saputa questa cosa, non ci voleva. Infatti la Corte Costituzionale ha perfettamente ragione. Il problema è che la politica non riesce più a combinare niente in questo paese. Mi viene in mente Morsi, perché fondamentalmente è la stessa cosa. Il problema è che non abbiamo neanche i militari che siano in grado di fare altrettanto. No, meno male, però. Visto l'inanità totale della commissariamo politica. La politica, perché non riescono a fare è una situazione senza uscita. Comunque oggi il ministro Del Rio a Repubblica ha detto: i cittadini stiano tranquilli, andremo avanti e cancelleremo le province. Testuale, giuro. Giuro. Ma secondo me loro lo sapevano, però. Ma lo sapevano anche loro. Lo sapevano dall'inizio questa storia delle province. Ma c'è la foto della Cancellieri con Patroni Griffi lì che ridono con la nuova mappa delle province quando l'hanno fatta, dicendo: ecco come sarà la nuova geografia delle province. Ridacchiavano: questa provincia non ci sarà più, questa è accorpata. È tutta una farsa. Mentre invece quello vero è solo le nomine, ne stanno facendo proprio tutti i peggiori da tutti i lati. Stanno distruggendo Fincantieri, Fincoso, là con De Gennaro, là che c'entra De Gennaro? Vabbè, che c'entra uno? Le nomine, sì, hanno messo oggi. Le nomine sono vere. Ratificheranno De Gennaro, capo di presidente di Finmeccanica. E con questo dice Libero: sono arrivati a 74 nomine in 67 giorni. Cioè scrive Libero, non rinviano tutto, ma le nomine no. Ma uno bravo non ce n'è, intelligente, non ce n'è. Sono tutti strati, tutti tipo Vegas, messi alla sobra, alla cosa, dappertutto. Gentaglia di carte della politica, del ceto burocratico, del coso. E che cos'è? Vegas è un ex senatore del PDL che per 20 anni faceva le relazioni su di là, di qua, insomma, faceva le cose tecniche, ma era incapace. Ci vorrà molto bene. Ma l'hai visto la lettera che ha scritto al Corriere, quella là? Dice: voi date messaggi mafiosi, giustamente De Bortoli, come dire, ogni tanto. Vabbè, Maurizio è partito. No, la questione delle nomine, sono le solite persone, questo è il concetto. Ma questo è un disastro contro la Costituzione, secondo me. Il governo Monti ancora una volta ha dimostrato che i tecnici al potere sono il disastro più totale, perché le province non potessero essere soppresse o ridotte per via di decreto o comunque per via legislativa normale, era evidente, ci vuole una riforma costituzionale, purtroppo, perché il sistema è ingessato anche per quello, anche perché la Costituzione contiene inevitabilmente dei meccanismi troppo che bloccano il paese, è una Costituzione vecchia e purtroppo va modificata, Posso dire una cosa, esattamente come una mozione non può bloccare gli aerei. No, aspetta, cos'è? Quanta Vegas? Non ho capito, non sono assolutamente d'accordo. Abbiamo fatto il bilancino, ci siamo salvati, Vincino. Io devo sempre chiamare uno contro Vincino che mi salva. Una mozione non può bloccare gli aerei, giustamente, il Consiglio Superiore del mondo, quello là che si riunisce al Quirinale. È passato agli F-35, Vincino. Ha detto che una mozione non blocca gli F-35, là decido io, ha detto giustamente. Ha detto sugli F-35 non decide il Parlamento, decidono i governi di fatto. È che giocano a rimandare a fa quell'altro. L'unica importanza è che qual è la battuta, no? Qual è la battuta, Maurizio? Enrico Slitta. Allora è il momento al Parlamento europeo. c'era una votazione, Pittella l'ha nominato prima Vincino, allora c'era una votazione, evidentemente su quelle votazioni arrivate in fine seduta e quindi bisognava fare un pochino in fretta, no? Allora sentite il crescendo di Pittella che deve approvare in fretta una cosa, sentite se si è approvato 20, chi a favore, chi è contro, chi si astiene approvato, seconda parte, chi a favore, chi è contro, chi si astiene approvato, 24, prima parte, chi a favore, chi è contro, chi si astiene approvato, seconda parte, chi a favore, chi è contro, chi si astiene approvato, 26, prima parte, chi a favore, chi è contro, chi si astiene approvato, seconda parte, chi a favore, chi è contro, chi si astiene approvato, 30, prima parte, chi a favore, chi è contro, chi si astiene approvato, seconda parte, chi a favore, chi è contro, chi si astiene approvato, 32, chi a favore, chi è contro, chi si astiene approvato, 33, chi a favore, chi è contro, chi si astiene approvato, 40, chi a favore, chi è contro, chi si astiene approvato, 43, prima parte, chi a favore, chi è contro, chi si astiene approvato, seconda parte, chi a favore, chi è contro, chi si astiene approvato, la proposta del suo insieme, chi a favore, chi è contro, chi si astiene approvato. Bravo! E sentite il finale, sentite. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito a tutti. E abbiamo finito. Chi si astiene approvato? Forse chi è contro? Si astiene approvato? Chi è contro? Il provvedimento approvato. Bravo! No, vabbè, Vincino, questo al Parlamento europeo, al dove Parlamento il 98% europeo non capisce l'italiano, per cui i lituani, sì, sì. Pittella, Parlamento europeo, Pittella legge 16 votazioni in 57 secondi, una roba che neanche usa in Bolt, Maurizio Tortorella, questa è veramente una manovra per entrare nei Guinness dei primati. Sì, sì, sì, cioè, e poi alla fine l'applauso di tutti, bravo, ce l'ha fatto, forse ce l'ha fatto, boh, non lo so. E buon appetito lo capiscono tutti. E buon appetito, certo, sì, andavano a mangiare. Buon appetito, è questo la questione. La questione era questa, bisogna andare a mangiare. È un aspirante segretario del PD, ma non lo so. È uno, cioè, che ha posto la sua candidatura, sì, sì, sì. Tra gli altri è uno che Il segretario, c'è al posto di Renzi, al posto di Barca, al posto di Epifani. Lui si mette a quella, lui è uno di quelli che vorrebbe fare il segretario. Ah, vabbè, sì. Vabbè, sicuramente è il mondo, guarda, non è che è rapido nel prendere le decisioni, no. Questo, su questo non c'è dubbio. No, ma devo dire che vabbè, come commentare, ma forse non lo so neanche il motivo per cui, a parte andare a mangiare, adesso non lo so, buon appetito finale, forse era una battuta. Cioè non voglio pensare che stessero a mangiare. Comunque, insomma, così, questo dicono. Buon appetito. Che dobbiamo commentare, Maurizio? Questo succede. Si lamentano che gli italiani sono dei perditempo, invece ogni tanto sono le cose velocemente, no? Una cosa è triste come quella che di cui abbiamo parlato lì. Vabbè, ma insomma. Ma si tratta di andare a mangiare gli italiani, pam! No, ma è così, di fatto la riunione andava avanti da 5 ore e quindi erano le 13 e evidentemente, non lo so, alle 13 è così. Però devo dire che non solo lui vuole andare a mangiare, visto che è stato accolto da un applauso, trionfale questa cosa. Vabbè, dobbiamo, giusto c'è per... C'è l'esercito però, questa cosa qua che c'è l'esercito buono, io non ci credo. Ecco, allora parliamo un attimo, no, perché volevo andare a parlare di quello che è successo alla regione Campania, ma parliamo di cose un po' più serie, appunto. In Egitto, io è da ieri che dico, ma scusate, ma quello che sta succedendo non è un vero e proprio colpo di Stato, cioè che ci piacciono o no, che ci piacciono o no quelli che sono stati eletti, sono stati eletti o no? Sì. Indubbiamente è così. Maurizio, è un colpo di Stato militare. Proprio appoggiato dal popolo, però la cosa interessante. Sicuramente, sicuramente, da gran parte del popolo. Forse la maggioranza, direi. Forse la maggioranza, sì, ho capito. La netta impressione, anche per cui poi io non mi occupo di esteri, però in Egitto sono stato qualche volta, è che l'elezione di Morsi, sostenuto dai fratelli musulmani, avesse ovviamente aperto delle speranze di democrazia, di soprattutto di efficienza gestionale del paese. Efficienza che non è mai arrivata, l'uomo si è perso in chiacchiere, in una gestione estremamente provinciale dell'Egitto, e la gente faceva la fila per la benzina 7 ore, non riusciva a ottenere nulla, nessun vantaggio dal nuovo governo né dall'abbattimento del precedente, e alla fine si sono stancati. Non è tanto un problema di islamici contro liberali o laici, è proprio il problema di efficienza della gestione dell'amministrazione. No, questo sì, effettivamente noi la mettiamo in maniera, anche perché il capo di stato maggiore dell'esercito, questo Al-Sisi, che ha preso il potere, tanto per dire una, era quello che aveva dato il via ai test di verginità delle donne fermate in piazza Tahrir, quindi non è che da una parte c'erano gli islamici, adesso ci stanno, no, i laiconi al ecco, no, giusto perché la gente è abituata a semplificare la gente, no? E quindi... Però certo è un colpo di Stato questo. Più un esercito è debole all'esterno, no? Perché l'esercito egiziano ha sempre preso bastonate dagli israeliani, da tutti, no? Più invece è forte all'interno, come poi è la forza economica più grossa dell'Egitto, come dire, è un disastro là pazzesco. È buffo, in situazioni di emergenza l'esercito è l'unico che riesce a procurare da mangiare, producono il pane, offrono assistenza sanitaria laddove gli ospedali non sono in grado di farlo, hanno una popolarità storica in Egitto i militari. No, ma certamente è anche un potere, come tra l'altro racconta Alberto Negri oggi molto bene sul Sole 24 Ore, ogni anno vengono finanziati da miliardi di dollari dagli Stati Uniti, ecco perché gli Stati Uniti sono molto attenti ovviamente per non solo per questioni geopolitiche ma anche questioni economiche, quello che succede in Egitto. 24 mattino. Caro Milan, voglio esprimere solidarietà al signore di Bari che fa rilassare le capre nel salotto della sua villa, caso Imo. Questo signore va subito imitato perché si è adeguato al nostro sistema politico. Quanti parlamentari si sono inventati mansioni inutili per intascare soldi a sbafo? Il governo del fare un cazzo. Abbiamo il governo del fare un cazzo. Complimenti. A parte che i nostri politici è questione di mesi, sono morti, guardiamo l'Egitto e noi italiani stiamo fermi e aspettiamo. Continuate a parlare dei villini ogni mattina, sono dei poverini loro che si sono ritrovati in un ambiente a loro scuro, dei neonati, invece gli altri col dolo ci fregano tutti i giorni. Quante persone sono presenti oggi in Parlamento? Gli altri dove sono? Sono a riscuotere la loro paghetta e a farsi i cazzi loro? Italiani, noi come invece di fare le rivoluzioni, scendere in piazza, scendere in politica, fare qualcosa, cosa facciamo? Siamo al bar a chiacchierare, tutti quanti concordi a dir male, a non informarci, a non fare un ciufolo. È tutta colpa nostra! Chiedo come sia possibile pretendere che quei quasi 1000 coglioni che ci hanno ridotto in queste condizioni adesso possano cambiare e rimediare a quello che hanno fatto. Io dico, italiani, organizziamoci, troviamoci davanti alle Camere a Roma e non li facciamo uscire quei delinquenti finché non hanno risolto i problemi. Devono andare a casa, altrimenti li facciamo fuori. Ho 63 anni, non mi interessa più niente, quello che dovevo perdere ho perso, futuro non ce n'è, io sono pronta a dare la vita per ammazzarne almeno uno. Ma signora, ma non esageriamo. Veramente, poi noi siamo proprio gli italiani, ieri ne parlavamo con Adinolfi qui, che dicono, poi giustamente almeno in questi casi non fanno niente, ma allora non diciamo cose che così è facile prendere un telefono e dire ammazzo, faccio, parto, armiamoci, andiamo tutti in Parlamento. No Maurizio, è facile, e poi va tutto in cacciara così, ma dai, meno male in questi casi. Ma sì, ma insomma, però insomma la rabbia c'è. Altri giorni era più divertente la vabbè, ogni giorno ogni giorno c'era la sua pena, la sua, era un po' più easy, no? A volte adesso io una cosa non ho capito la tortorella, sì, però sì. Perché alla Consob va bene un vecchio ex senatore o invece non un giovane laureato alla London Economic School che viene qua e guarda tutto con con l'aria da investigatore. Si è svegliato così oggi. Perché un vecchio che ma che c'entra? Ma che c'ha adesso Vegas? Io non lo conosco, ma oggi si è svegliato, ce l'ha con Vegas. Intanto Vegas ha fatto sicuramente meglio di molti dei suoi predecessori che erano lì a... Disastro. Ma tu Maurizio stai pure a difenderlo. Voglio dire, siamo qui a fare gli avvocati difensori di Vegas. Lo stima, per cui vorrei convincerlo. Vorresti convincerlo. Non riesco a capire neanche la l'acrimonia contro il... Ma Vincino non lo convince nessuno dal 61 su una cosa. Hai ragione. Comunque no, mi stupiva l'odio antipolitico di questa di tuoi ascoltatori. Bah, insomma, tutti i giorni è così. E soprattutto armiamoci e partite che continuo a sentire. Sì, sì, ma fortunatamente siamo un popolo del proprio dell'armiamoci e partite voi. Quindi ma quello della mazza e della zappa è scomparso. Quello della zappa è scomparso. È così, è scomparso. Però veramente da cabaret. Se ci ascolta, abbiamo sempre l'appello. Se vuoi, sì, facciamo un appello pubblico al nostro Angelino. Angelino. Vabbè, oggi, panorama, appunto, dicevo nella copertina, taglia qui, no, Enrico? Avete detto la difesa, l'ordine pubblico, sanità, dove tagliare la spesa pubblica? Ma se anche solo dalla regione Campania, l'ultima che è uscita, 53 consiglieri regionali indagati, quasi tutti. Sai cosa hanno preso, caro Vincino, coi soldi nostri, questa è l'accusa? Tutto, giocattoli, gioielleria, bigiotteria, un corno d'avorio, un necrologio, si sono pagati un necrologio coi soldi nostri, poi bombole del gas, una Barbie e poi giocattoli, una tintura per capelli da uomo, 3 euro rimborsati. Ma questo è bello perché in tutta Italia tutte le regioni hanno fatto così. Sì, tutti. Questo tutti, è tutti, proprio tutti. È, vuol dire proprio l'unità d'Italia, l'abbiamo fatta attraverso queste cose qua. Tutti. Le bambole, le attraverso tutte le Friuli, Piemonte, Lombardia, Campania, Basilicata. Si lamentano delle province, vabbè, ma io siccome abbiamo il grande Pittella, no, che ha tenuto banco oggi, vi ricordate chi vi ricorda Pittella? Ci fu una vicenda, chi è che è caduto? Boh, qualcuno è caduto vicino. Maurizio, ti ricordi chi ha fatto la stessa cosa al Senato? Sì, era una leghista, Rosi Mauro. Senti qua, Rosi Mauro. 6.307 parere contrario, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non è approvato. 6.24, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. Per cortesia, la presidenza si è espressa. Vado avanti con le votazioni. Tra le contestazioni, se ti ricordi, fece anche votare, cioè no, fece votare in maniera contraria rispetto al governo, cioè fu un disastro. Vabbè. Vergogna anche Rosi Mauro, poi non ha fatto politicamente una bella fine, Non ha detto andiamo tutti a mangiare, Pittella è un grandissimo, ha finito dopo 5 ore di seduta veloce, approvato, bravo, buon appetito a tutti, grazie. un genio. Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, che trovate oggi con Basta Tasse Tagliate Qui, la copertina in edicola, e a Vincenzo, che forse è caduto, ci ha abbandonato prima, non sapremo mai il busto di Andreotti a che punto è, l'asta. Vabbè, la prossima volta, ora giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:16 minuti, siamo qui cari ascoltatori con la rassegna stampa, con i giornali da leggere. Per voi vi ricordo anche gli ospiti, oggi è il cosiddetto Restitution Day, per cui il Movimento 5 Stelle restituirà una cifra sopra il 1,5 milioni, credo, di euro

mostrerò le carte e il tema è molto interessante, ne parleremo alle 8.30. Siamo però al momento della chiusura con il premio da assegnare anche oggi, la carta costa, l'articolo più inutile scovato a mio insindacabile giudizio sui giornali, e oggi andiamo sul Secolo XIX, dove Bruno Viani in un'intera pagina ci racconta i croceristi della fede a bordo vasca. E che diamine è? Parte la prima crociera della fede il 28 luglio da Genova. Ospiterà 2.400 ospiti, persone, coordinate da Don Gianfranco Calabrese, che celebrerà tutti i giorni la Santa Messa. Tra casinò e balletti spunta il pacchetto con incontri sul credo, lo Spirito Santo e le confessioni. Si parte da Genova, si va a Marsiglia per il tema Credo in Dio, la ricerca della fede, poi a Barcellona, la Sagrada Famiglia, e poi visita a cattedrali. Perché vivere la vita di bordo non è peccato, assicura Don Gianfranco, può essere una testimonianza e una proposta. E allora eccola qui, la prima crociera della fede, parte dal 28 luglio, ma insomma, amici del Secolo XIX, un po' chi se ne frega, scusate, ma è soprattutto l'appello è il solito, attenzione che la carta costa. E allora è tempo di giornale radio. Mattino. Eccoci di nuovo in diretta alle 8:16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, oggi è stato definito dagli esponenti del Movimento 5 Stelle il Restitution Day, cioè oggi pomeriggio verrà restituita una cifra, che adesso cercheremo di capire anche quant'è, allo Stato, diciamo al Parlamento, a tutti noi, una parte della componente dello stipendio dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, la cosiddetta diaria. Voglio salutare il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, il senatore Nicola Morra, buongiorno e buongiorno benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto spieghiamo che la diaria è una parte dello stipendio dei parlamentari, credo che sia 3.503,11 euro al mese, poi viene decurtata se uno è assente, un tot 200 euro, 206 euro al giorno per ogni assenza. Voi oggi cosa farete? Restituirete la parte della diaria che tutti i vostri parlamentari non hanno speso? Guardi, esattamente, noi abbiamo deciso di inserire fra le cifre all'interno delle quali, grazie alla nostra virtuosità, si può risparmiare e quindi si può restituire l'eccedenza, abbiamo deciso anche di inserire le somme che ci vengono date per le spese di trasporto locale e per il telefono, per cui la base da cui partiamo è di circa 5.150 euro per noi del Senato al mese. Sì. E su questo abbiamo cercato insomma di vivere con sobrietà, non facendoci mancare nulla, ma neanche insomma sprecando. E restituirete la parte, esatto, eccedente. A quanto ammonta questa cifra? Guardi, complessivamente fra Senato e Camera siamo capaci di restituire allo Stato 1.500.000, mi pare 60 e rotti mila euro. Adesso la cifra esatta non la ricordo. Diciamo 1.560.000, diciamo, più di 1.500.000 euro. Questi soldi voi li restituite? Cioè cosa fate? Materialmente cosa succede? Li date allora al Parlamento? Li restituiamo allo Stato, esattamente al fondo per l'ammortamento dei titoli del debito pubblico, perché noi siamo venuti qua con la mission di bonificare lo Stato, di rendere un'istituzione che sta sempre più perdendo credibilità perché è sempre più malata, un'istituzione nuovamente sana e capace di dialogare con i cittadini. D'altronde lo Stato, se c'è per soddisfare le esigenze, i giusti bisogni, i giusti diritti dei cittadini. Quindi noi vorremmo, dando l'esempio, operare questa rivoluzione. Sa che, senatore Morra, vi hanno accusati anche sui giornali di dire hanno litigato sugli scontrini, sulla diaria, chi la do, chi non la dà, riunioni. Ecco, a che punto siamo? Cioè, tutti i parlamentari, guardi, l'hanno restituito? Se mi posso permettere, sì. Esattamente, tutti quanti, sia al Senato che alla Camera, per quello che mi consta, abbiamo restituito, naturalmente con delle piccole differenze dovute al fatto che magari chi è di Roma non ha preso l'abitazione, chiaro, via dicendo, insomma sono cose che ci stanno, sono nel buon senso, nella logica di tutti quanti noi. Il messaggio che vorremmo dare e che oggi saremo felici insomma di offrire materialmente a tutti, oggi i romani, ma metaforicamente, simbolicamente tutti gli italiani, il messaggio è esattamente questo: se noi che siamo al vertice della piramide dello Stato riusciamo, rinunciando a diverse cosine, riusciamo insomma a restituire allo Stato parecchio in un momento in cui c'è tanta necessità di risorse, tanti altri potrebbero fare altrettanto. Non di più. Io ieri sono rimasto basito quando ho sentito dell'ennesimo scandalo che ha coinvolto un consiglio regionale, esattamente quello della Campania. Sì. Insomma, ormai ogni giorno ci fa sapere che ci sono queste vicende, ma poi vabbè, li indagherà la procura. Però mi scusi, io dalle agenzie ho visto che c'è la senatrice che è fuoriuscita però dal Movimento 5 Stelle, Anitori credo, che ha detto no, lei, io sono fuori dal Movimento 5 Stelle, quindi la diaria me la tengo, sostanzialmente. Bene, adesso è un problema che riguarda la senatrice, tutti quanti noi chiaro, abbiamo sottoscritto un impegno che era con la nostra coscienza, con i nostri elettori, ma soprattutto con i cittadini italiani tutti. Noi volevamo dar semplicemente l'idea di una svolta, perché noi rappresentiamo un modo nuovo di far politica, almeno questo nelle nostre intenzioni, che oggi però si traducono in fatti. Noi vorremmo far capire innanzitutto a noi stessi, ma anche a tutti gli altri, che cambiare si può. Però c'è un altro onorevole, se non sbaglio, Tacconi, che vivendo in Svizzera dice: io in Svizzera la vita lì costa di più, e quindi ha chiesto una deroga che gli è stata negata. Ha restituito lui la diaria? Sì, guardi, io l'ho sentito, glielo posso anche dire tranquillamente telefonicamente, lui ieri mi ha detto che avrebbe provveduto a far appunto il bonifico. E il punto qual è, perché questo vale per Alessio e vale per tutti, dal momento in cui è stato sottoscritto l'impegno non è cambiato alcunché. Se io dovessi accettare una deroga per chi vive in Svizzera, allora dovrei anche accettare le richieste di chi magari, vivendo in zone del nostro paese in cui il costo della vita è evidentemente più alto che in altre, sì, bisognerebbe fare eccezione. Quindi ha restituito tutto, cioè, o meglio ha promesso che lo farà, perché sì, quello che naturalmente si deve restituire è quello che non si è speso. Sì, certo, la parte eccedente sì, della via. Sì, sì, sì, esatto. E quindi lo fa, ha detto che lo fa. Altrimenti, perché si parlava di nuove espulsioni, possiamo... No, altrimenti ci sarebbe un impegno, mi scusi, se lei firma un contratto e poi non mantiene fede a questo contratto, qualche problema c'è. Qualche problema c'è. Senta, l'altra domanda è: ma oggi ci svela questo mistero, Beppe Grillo ci sarà oppure no? Perché danno guardi, più sul no, virano più sul non, no. Più sul non sì, glielo so dire, sarebbe bellissimo se Beppe fosse con noi, perché sarebbe insomma una sorta di legittimazione di quanto tutti quanti, sulla base di questa sua indicazione, siamo riusciti a fare. È come se un buon padre di famiglia si unisse intorno ai suoi figli, che hanno compreso le motivazioni di alcune scelte e hanno attuato appunto, non voglio dire questi sacrifici, ma questi provvedimenti, queste accortezze, con tempo tutti quanti noi italiani saremmo stati capacissimi di fare senza che alcun altro ce lo suggerisse. No, perché sentite un po' la mancanza, si è un po' defilato, addirittura si parla che vada in tournée. No, guardi, ecco, io ieri dicevo ad un suo collega questo: noi abbiamo necessità di incontrarci e tutte le volte che lui è a nostra disposizione siamo tutti contenti, ma questo non significa dipendere da lui, perché noi tutti siamo autonomi, siamo soggetti pensanti e assolutamente liberi nel nostro pensare, ma questo non significa che non si riconosca a Beppe questa straordinaria capacità, questa straordinaria intuizione che ha permesso la nascita del Movimento 5 Stelle, naturalmente sì, senza nulla togliere a Gianluca. No, ma questo certamente, però Beppe Grillo ancora più volte ha fatto anche questo appello a Napolitano, anzi vorrei capire se ci sono novità, se vi vedrete domani a questo punto, e chi andrà al Colle, lei, il capogruppo? Penso di sì, io credo che così come nelle altre occasioni sono andati i capigruppo, andale, si vada nella stessa insomma composizione. E poi, perché avete chiesto questo incontro con Napolitano? Cioè, cosa volete dire al capo dello Stato? Bene, il messaggio è questo: il paese sta crollando a pezzi, in Parlamento noi ogni giorno di più ci rendiamo conto che il nostro lavoro è quasi quasi sterile. Lo stesso monito che ieri è arrivato dal Consiglio Supremo di Difesa in relazione agli F-35 è stato abbastanza chiaro. quasi quasi insomma alcuni organismi che per quello che io sappia non hanno rilevanza costituzionale a pieno titolo, così come il Parlamento, addirittura ritengono di aver più peso dello stesso Parlamento. Noi da quando ci siamo insediati non abbiamo fatto altro che lavorare per il governo, perché di fatto stiamo sempre rincorrendo i provvedimenti governativi, i vari decreti legge che il governo emana. E riconoscendo questa richiesta di consultazione, di incontro, il Quirinale ha fatto capire che forse l'esecutivo Letta più di far annunci non riesce a fare. Lei addirittura c'è questo. Beh, non credo che nel ricevervi vuol dire avallare questo tipo di discorso, però lei dice praticamente il Parlamento è inutile, cioè quello che facciamo in Parlamento è inutile attualmente. Ma guardi, io ieri ne parlavo con colleghi non del Movimento 5 Stelle, ma con colleghi sia della Lega che del PD, e loro stessi mi confermavano questa sensazione, che poi a livello personale è molto molto sgradevole, di assoluta sterilità, di assoluta inutilità. Insomma, io penso che ognuno di noi a fine giornata si dovrebbe domandare che cosa ho fatto, e se poi alla risposta che ti devi dare, insomma, hai diverse perplessità, per non dire forti perplessità, io sono molto spesso eufemistico, insomma il problema evidentemente c'è. Però verrebbe da dire senatore Morra, quasi quasi che rubate lo stipendio a questo punto. Guardi, non voglio dire questo, però ci sono dei modelli di funzionamento della macchina parlamentare, e ieri ne parlavo appunto con altri colleghi, che prevederebbero la possibilità, e questi sono i regolamenti che ce lo consentono, di lavorare di più, ma soprattutto meglio. E perché noi non lo facciamo? Di fatto, e questo lei lo sa meglio di me, il Parlamento italiano, in particolare il Senato, lavora dal martedì mattina al giovedì a pranzo. Nonostante Grasso abbia detto che dovevate lavorare. Esatto, nonostante, io non ancora ho capito. In più occasioni invitato il Presidente Grasso ad incrementare i suoi sforzi per convincere tutti i gruppi ad accettare il fatto che si lavori dal lunedì fino al venerdì. Che è una cosa, dovrebbe essere una cosa, quello che fanno tutti gli italiani. Esatto, è la normalità che qui sembra straordinaria, per questo io dico che noi siamo chiamati a fare una rivoluzione pacifica, ma soprattutto una rivoluzione insomma razionale, quindi, normale. Voi direte al Capo dello Stato che il paese sta crollando dal punto di vista economico, ma anche che vi sentite questa forte inutilità, senso di inutilità e inadeguatezza di quello che fate in Parlamento. Certamente, guardi, più di stare in commissione, ci sono giornate in cui si parte alle 8 di mattina e si finisce anche la sera senza aver la pausa pranzo, c'è il comitato pareri, c'è la commissione congiunta, poi c'è l'aula, insomma c'è tutto questo susseguirsi di impegni, e poi ti domandi, ma io personalmente che cosa ho fatto se non ratificare quanto altri mi hanno chiesto in qualche modo di ratificare? Certe volte si procede a votazioni alzando la mano e abbassando la mano, alzando la mano e abbassando la mano, oppure nella buchetta quando c'è il voto elettronico, però tutto questo dà il senso di una mancanza di dibattito. Ora il Parlamento è nato affinché ci si ascolti, affinché ci si capisca, ci si confronti e si facciano le leggi, però. Esatto, ma da quanto tempo è che il Parlamento italiano non licenzia una legge promossa da un suo componente? Tutto decreti legge del governo. Esatto. Quindi a questo punto, cioè, la soluzione potrebbe essere anche chiudere, perché se ne parla tanto, chiudere uno dei due rami del Parlamento? Ma guardi, ma le soluzioni possono essere tante, il fatto è che noi dobbiamo avere la volontà tutti, di tornare a lavorare per il paese, per i cittadini, per i contribuenti. Qui invece continuiamo a dar vita a sceneggiate, a pantomime, insomma, tutti quanti ci rendiamo conto di essere ingessati, ingolfati. Per esempio, cioè, qual è a che cosa si riferisce sceneggiate, pantomime? Guardi, io ieri vedevo in televisione, sono scene che rinviavano al Parlamento europeo, le votazioni che ha fatto proporre il vicepresidente del Parlamento europeo, Pittella. E come no, abbiamo fatto sentire l'audio alle 6:30, 17 votazioni in 50 guardi secondi. Guardi che in molti contesti la situazione è analoga. Senta, l'ultima cosa che le devo chiedere, senatore Morra, è su Berlusconi, è ineleggibile, voi tenete questo punto, secondo voi sarà ineleggibile, ma se verrà condannato che succederà? Berlusconi deve andare via dal Parlamento, deve andare in carcere? Ma per io penso che la legge esista perché venga applicata. Noi siamo il paese che ha più leggi probabilmente al mondo, ma in cui la legge sostanzialmente è aria fritta, insomma, sostanzialmente, perché di fatto le leggi non vengono applicate. Noi vorremmo che sulla base delle leggi esistenti la norma venisse applicata, poi si può anche lavorare sul modificare le norme, perché non è detto che le leggi siano la perfezione. Però questa stessa norma lo ha reso eleggibile per diverse legislature. No, diciamo così, che molti, facendo finta che una norma non ci fosse, e chiudendosi gli occhi, hanno accettato che il cavalier Silvio Berlusconi potesse essere considerato eleggibile, ma lei sa che questa norma c'è, e poi naturalmente se uno fa il cieco, se uno fa il sordo, crede a tutto. Va bene, intanto la ringrazio, oggi vedremo anche questa iniziativa, credo al pomeriggio, con la conferenza stampa per l'istituzione. Sì, esatto, io anzi approfitto verso le 5:30, sembra un quarto. Vabbè, se siete vicino al Parlamento, andate. Montecitorio. Vabbè, le 5:30, cari romani, o se volete, se siete in zona, esatto, Parlamento, c'è una manifestazione. A turisti, tutti. Vorranno, ecco, verificare qualcosa di straordinario, perché è la prima volta nella storia della Repubblica in cui qualcuno, piuttosto che chiedere qualcosa in più per restituisce, sé, addirittura si toglie qualcosa. Va bene, io intanto la ringrazio per essere stato con noi, senatore Nicola Morra, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Noi ci fermiamo 5 minuti per la pubblicità, poi avremo con noi Davide Vannoni, chi è il padre del cosiddetto metodo stamina, molto contestato dalla comunità scientifica, a dire non è quella cura miracolosa come dice lui, ma è un plagio bello e buono per il quale spenderemo 3 milioni di euro per una sperimentazione di un qualcosa che assolutamente non è scientificamente validato. Insomma, le accuse sono molto dure nei suoi confronti di essere un vero e proprio ciarlatano. 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:35 minuti, cari ascoltatori. Allora, vogliamo tornare a parlare di un tema che abbiamo già affrontato di recente, il cosiddetto metodo stamina. Il metodo stamina, che è un metodo che attraverso il trattamento di cellule staminali, dice il suo ideatore, è in grado di curare 120 malattie anche molto molto gravi, patologie degenerative molto molto gravi, incurabili secondo la maggior parte della comunità scientifica. E beh, questo metodo stamina ora è molto sotto attacco. Per questo metodo l'Italia spenderà 3 milioni di euro stanziati dalle Camere per la sperimentazione, per vedere se è sottoposto a tutti i protocolli scientifici ed è valido. Il suo ideatore è stato accusato di avere fatto un metodo plagiato dai russi e che non ha alcuna validazione scientifica. È Davide Vannoni, l'ideatore, è con noi. Buongiorno e ben ritrovato, Vannoni. Eccoci qua. Buongiorno. Senta, lei senza mezzi termini ora è definito un po' il ciarlatano che sta speculando sulla salute di persone molto gravemente malate con un sistema che non ha alcun tipo di validazione scientifica. Perché lei si è difeso dicendo, per esempio, ma Nature, che ha detto questa cosa, che è una rivista scientificamente considerata importante al mondo, è un giornaletto parrocchiale? No, non ho detto questo. Ho detto che l'articolo era a livello di un giornaletto parrocchiale. All'articolo. L'articolo fatto da Abbott, poi Nature sicuramente pubblica. È firmato da tre scienziati italiani, ma di fama internazionale, cioè tre scienziati. No, per la verità l'articolo di riferimento, quello con cui ci attaccano quest'ultima volta, perché poi altri due ci avevano attaccato precedentemente, però quest'ultimo con cui ci attaccano è firmato solo da questa giornalista, da questa Abbott, che intervista poi due scienziati italiani che non perdono occasione per parlare, diciamo, anche senza conoscere i dettagli delle cose. Comunque, nella realtà dei fatti, che cosa è stato detto? Si è stato detto che noi abbiamo usato due delle immagini in una domanda di brevetto ritirata, sì, presi da un articolo di russi, effettivamente un articolo di Elena Segreskaya, e li abbiamo usati tra le varie immagini nostre che abbiamo inserito una domanda di brevetto appunto in questa domanda. La realtà dei fatti è che questa signora Elena Segreskaya, una bravissima ricercatrice, ha lavorato con noi per 3 anni, è stata stipendiata, ha lavorato quindi con noi. Quindi dice, noi collaboriamo con lei e quindi è chiaro che abbiamo utilizzato. È la stessa, Segreskaya? Ma aggiungo un'altra cosa, che l'articolo di Elena Segreskaya è in bibliografia nella domanda di brevetto, quindi direi che il concetto di plagio è tutta un'altra cosa. Però mi scusi, Vannoni, è la stessa Segreskaya che è indagata con lei a Torino dal procuratore? Ma come no, certo. Insieme a due direttori generali e una trentina. Procuratore Guariniello vi ha accusato di somministrazione di sostanze pericolose. Esatto, farmaci imperfetti. Poi chiaramente, siccome ci siamo associati anche associazione delle lingue, che non manca mai. e quindi alla fine, però le dico, quelle sono indagini in corso da 5 anni, quindi aspettiamo di vedere se si concluderanno mai. Per il resto quello che posso dirle è che per quello che concerne la metodica Stamina, è ovvio sempre, ma sempre dichiarato, ma è sempre comparso sui giornali, se lei va anche sui primi articoli di anni fa, si è sempre parlato del fatto che una metodica che inizialmente è stata derivata da questo know-how sviluppato in Russia, da russi in realtà sviluppato in Ucraina, da docenti universitari. Mi dispiace che la Abbott si sia dimenticata di dire che all'interno di quel famoso articolo che cita ci sono, in realtà si parla anche di una parte di ricerca preclinica, già di applicazioni cliniche sui pazienti. Mentre sa che ci hanno sempre accusato che questa metodica la sperimentavamo sulle persone e usavamo la gente come cavie, però poi non smettono mai comunque di raccontare queste cose. Insomma, lei dice intanto noi abbiamo collaborato con queste persone, quindi non abbiamo copiato niente. Tutti dipendenti. Esatto. Però mi scusi, lei anche ha detto è un attacco. No, certo, lei ha detto anche è un attacco politico, che è una cosa proprio tipicamente italiana. Cosa vuol dire un attacco politico? Cioè, a parte della comunità scientifica, molta parte della comunità scientifica, come lei ben sa, dice non c'è nulla di scientificamente provato in questo metodo. Perché è un attacco politico? Sarà corroborato da alcuni studi che hanno fatto, no? Che hanno fatto non lo so, che hanno fatto sui loro metodi non lo metto in dubbio, che hanno fatto sul nostro metodo ne dubito. Quello che posso dirle però è questo, che da un lato è uscita oggi, pochi giorni fa, la rivista Cell R4, una rivista che deve essere ovviamente appena uscita, per cui sarà poi indicizzata su PubMed nel prossimo periodo. Il direttore di questa rivista è Camillo Ricordi, che è uno dei principali diabetologi a livello mondiale, che lavora appunto all'Università di Miami, e ha fatto un editoriale, guarda caso, sul caso Stamina. Le dico, con Camillo Ricordi ci siamo sentiti una volta per telefono perché parlavamo. Quindi lei dice ci sono scienziati che dicono in realtà il contrario. Che dicono che Nature ha fatto un articolo di parte politico, criticano Nature per questo aspetto e criticano anche l'atteggiamento di questi pochi scienziati italiani. Perché mi spiace, il fatto che parli presidente di un'associazione con 200 scienziati non vuol dire che tutti i 200 scienziati siano d'accordo con lui. E vi ricordo che la lettera che è stata inviata al ministero quando si parlava della possibilità di fare un'altra sperimentazione era firmata da 13 scienziati italiani. Sì, a questo proposito, la sperimentazione, Vannoni, lei ha detto sul nostro metro non hanno fatto sperimentazione, e guardi che il ministro Lorenzin però ha detto chiaramente questo: la fondazione, cioè lei, voi, dovete consegnare il protocollo, era la scadenza il 1° luglio, perché non l'avete consegnato? Per la verità, la scadenza del 1° luglio era quella del ministro in cui ha firmato tutti i suoi decreti. E vabbè, scusi, un decreto del ministro. Sarebbe partita la sperimentazione. Un decreto del ministro sarà una legge, no? No, la legge del Parlamento. Il ministro poi l'ha trasformato facendo 2 decreti in cui, da un lato, ha dato il via a questa sperimentazione creando questo tavolo di lavoro con cui ci siamo già confrontati. E ha stabilito questa data, il 1° luglio. Sì, noi ci siamo incontrati prima del 1° luglio con questa Ma perché non l'avete consegnato? Perché stiamo discutendo con questa commissione. Questa commissione ci ha chiesto, il cui presidente è Oleari, che è il direttore, è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, una bravissima persona con la quale ci siamo trovati immediatamente da questo punto di vista del dialogo scientifico. Lui ha chiesto, come è legittimo, che la nostra metodica venga standardizzata. Beh, ci mancherebbe. Beh, mica tanto. Noi abbiamo una metodica che è fatta per i trapianti e quindi ci chiedono di standardizzarla per diventare tra virgolette farmacologica. Ma mi scusi, lei vorrebbe una sperimentazione scientifica secondo standard che decide lei? No, per carità. Infatti guardi che adesso è una settimana che stiamo lavorando per togliere tutte quelle variabili che noi utilizziamo, perché in realtà nella nostra metodica siamo noi che ci adeguiamo alle cellule e non le cellule a noi, quindi ci adeguiamo in base a come loro crescono essendo materiale vivente, e invece stiamo cercando di standardizzarla per fare un protocollo il più semplice possibile, applicabile anche da biologi non esperti. Però mi scusi, lei dice state facendo un dialogo con la commissione che poi presiederà la sperimentazione, però il ministro è stato chiaro, cioè il ministro ha detto lo consegni questo protocollo. Allora lo scriva lui se lo riesce a farlo così, anzi lei. Se riesce a farlo così in fretta. Noi è una settimana che ci stiamo lavorando e stiamo ubbidendo a un ordine che c'è è stato dato dall'Istituto di Sanità, e quindi ci stiamo attenendo a quello che ci è stato chiesto. Quando verrà, quando sarà pronto? Perché scusi, è dal 2005, se non sbaglio, che voi applicate questa certo. cura stamina. Quindi avevate un protocollo vostro? E come no? E consegnate quello. No, perché è quello che non va bene, perché è quello che deve essere invece standardizzato. Ah, deve essere standardizzato. Semplificato. Qui dobbiamo un po' cancellare, se vuole, 6 o 7 anni di innovazioni che abbiamo messo in questa metodica sì. su una determinata linea, per farne una metodica più semplice e applicabile. Va bene, purché poi non ce la cambino più. Ecco, questo è un po' il senso che voglio dare a questa va cosa. Va bene, perché ma quando... farla cambiare da biologi che la conoscono sì. che non farla cambiare a caso da chi non la conosce. Quando consegnerete questo? Quando, guardi, quando allora, che lo consegnerete? Io sono rimasto d'accordo che venerdì mi sentirò con... cioè domani mi sentirò con il dottor Oleari e fisseremo 2 date per la consegna, e quindi la volontà di farlo da parte nostra c'è. Ho chiesto due fattori di, anzi in realtà ho fatto 5 richieste che sono però talmente ovvie e banali che mi sembra difficile che non vengano accettate, anche perché alla luce di tutto quello che sta succedendo direi che sono più che, sì, più sì. che altro necessarie e sufficienti, come si suol dire, no? Allora, da un lato ho chiesto il fatto che la standardizzazione che noi forniamo della metodica poi non venga più modificata, perché sennò a quel punto verrebbe testata una cosa diversa da quella che facciamo noi. Ricordiamoci che questa sperimentazione nasce in funzione di quello che si sta facendo a Brescia. Cioè dove l'ospedale di Brescia viene ci sono pazienti in cura, dove il Ministero ha già riconosciuto che non ci sono effetti collaterali e quindi ha già riconosciuto la sicurezza di questa metodica, permettendo dei pazienti di continuare. E quindi da questo punto di vista non siamo più nel vincolo del valutare se è sicura o meno, sì. siamo nel vincolo del valutare se è efficace o meno. E questo, per carità, è un'opzione chiaramente legittima. Beh, sa che su questo ci sono anche dei pareri contrari sul fatto che non sia che non abbia effetti collaterali. Però facciamo così, Vannoni, devo dare che vogliono, però me li dimostrano gli effetti collaterali. Ma è chiaro, però qui sembra quasi una situazione in cui siano gli altri a dover dimostrare che il suo metodo non funziona. Invece quando c'è una persona che dice ho trovato un metodo per curare, dovrebbe essere lui che dimostra che funziona questo metodo. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi ho alcune altre domande ovviamente per arrivare alla fine della trasmissione. Siamo con Davide Vannoni, il presidente della Fondazione Stamina. Allora Vannoni, io le devo fare questa domanda, alcune domande molto terra terra per far capire a tutti. Intanto, per sperimentare il metodo Stamina il Parlamento ha stabilito che vengono stanziati 3 milioni di euro, 3 milioni di euro di soldi nostri, di tutti. Se puta caso la sperimentazione con tutti i criteri dimostrasse che, glielo dico francamente, che lei è un ciarlatano, cioè che è un qualcosa di nulla, di alcuna validazione scientifica. Lei come... Noi stiamo testando la metodica e non me, direi che no. La metodica non funziona più che... una valutazione personale, comunque. No, vabbè, cioè, insomma, non una valutazione personale. Chiunque faccia un esperimento. No, attenzione, ma no, però attenzione, lei dal 2005 dice io posso curare alcune malattie, e se certo. poi questo non passa una validazione scientifica, qualcuno potrà dire, scusi, lei ha illuso delle persone, ha venduto una cosa che per un qualcosa che non è. No? Tenendo conto che ci sono, sì, certo, c'è il parallelo tra i risultati che ci sono a Brescia, che sono monitorati. Ho capito, però se si accetta... Quella sarà sempre la prova del 9 di tutto. Vabbè, lei quindi dice, se anche fallirà la sperimentazione, comunque a Brescia funziona, perché a Brescia dicono che funziona. Non è che Brescia è la Bibbia, dal no, punto di vista scientifico. Stanno raccogliendo dei dati su 200 persone. Comunque, dovesse succedere che la sperimentazione fallisse dal punto di vista scientifico, cosa lei come reagirebbe? Non direbbe mica, ma perché hanno cambiato le carte in tavola? Sa per io proprio per evitare questo, ho chiesto... Tra le varie cose, tra i 5 punti che ho chiesto al Ministero, che venga nominata una CRO. Che cos'è una CRO? È un organismo di controllo internazionale, in genere sono delle società private che vengono scelte, se la sceglie il Ministero che vuole, che sono esperti in sperimentazione. Cioè non si fida degli italiani? Diciamo. No, non è che non mi fido degli italiani, diciamo che mi fido poco del comitato scientifico costituito dal Ministero senza sentire il nostro parere e senza accettare i medici che avevamo indicato noi, i docenti universitari, che avevano dato la loro disponibilità. Però a parte quello, tenendo conto che ad esempio nel comitato scientifico, e direi che ne basta uno, ma potrei citargliene altri. C'è Luca Pani, presidente dell'AIFA, che proprio su Nature critica la nostra metodica. Insomma, lei vede, poi la dobbiamo fare valutare. Lei già dice, non è un po' mettere le mani avanti, cioè se fallisce la metodologia è perché ci sono delle persone che erano già prevenute. No, non dico questo, dico solo che voglio che il dato sia oggettivo, in modo che io non possa mai dire una cosa del genere, qualora la metodica fallisce. Certo. La seconda domanda che volevo farle è questa. Guardi, ieri anche un esponente del Movimento 5 Stelle in Parlamento ha detto, e ha fatto una considerazione molto terra-terra che tutti noi facciamo, mi scusi, ma se lei dal 2005 ritiene di curare le persone per malattie molto gravi, perché non ha pubblicato tutto in maniera trasparente in nome del progresso scientifico, in nome della salvezza, in nome dell'aiutare le persone, della dignità delle persone, cioè senza che le vengano a chiedere, ci faccia vedere come, proprio dice in nome del progresso scientifico e medico vi faccio sapere questa nuova cura come funziona. Beh, la sperimentazione serve per quello. Noi come fondazione, essendo una fondazione onlus e non essendo una società che poi deve fare brevetti e profitti, siamo sempre partiti dal presupposto che la prima cosa che ci interessava era riuscire a curare le persone. Ma ancora prima della sperimentazione, proprio dire diamo in nome della salvezza dell'umanità e del contributo alla medicina, diamo al mondo questo tipo di sperimentazione, perché questo tipo di cura, perché è un qualcosa che aiuterà veramente, lo facciamo per il bene e il progresso dell'umanità. In realtà lo stiamo già facendo. Beh, non avete pubblicato, diciamo, i risultati, diciamo, su riviste. Come dicevo, la terapia che noi mettiamo in atto dura un anno o più sui pazienti ed è fatta di più infusioni. Solo a Brescia siamo riusciti ad arrivare per adesso su due pazienti a completare il ciclo delle cinque infusioni. In tutti gli altri casi, a Trieste ci hanno fermato, in Piemonte non ci hanno fatto neanche partire. Quindi, ma ci sarà un motivo? Lei non si è fatto... Ma chi lo sa? Che risposta si dà? Me ne sono fatte tante. Beh, me ne dica una. Capisce? Io credo, se vuole le dico la principale. Sì. Tutte queste persone che oggi stanno sparando contro di noi, questi 13 scienziati che vedono 3 milioni di euro buttati dallo Stato per provare a vedere se la metodica funziona, quando ci sono 200 persone in cura dentro Brescia, alla fine avrebbero potuto tranquillamente aspettare e vedere se il dato c'era o non c'era, invece di dare dei pregiudizi come quelli che stanno fornendo in questo momento e urlare che la sperimentazione non deve essere fatta, aggrappandosi a 3 milioni dopo che loro ne buttano decine per curare topi con metodiche che prima che arrivino in clinica ci metteranno 15 anni. Sì. Allora vede, forse quello che non verrà mai perdonato alla stamina è quello di portare in clinica proprio una metodica e velocemente. Però vede, non è un assurdo che avviene solo in Italia. Lei pensi che il Giappone ha da poco emanato una legge per cui tutte le terapie constaminali adesso verranno fatte in questo modo. Si trattano 10, 20 o 30 pazienti subito, si dimostra la sicurezza e poi si entra immediatamente in una fase, quella che loro chiamano market, cioè quindi il farmaco viene già subito distribuito alla maggioranza dei malati di una determinata patologia e monitorato per i 5 anni successivi. Però non crede che il principio di precauzione invece su cure che non sono validate scientificamente sia il principio giusto da mantenere, come hanno fatto in Piemonte, in Friuli, le ha citate lei dove non le hanno fatte fare? No, in Piemonte non è che non ci hanno fatto fare niente. L'hanno anche indagata. No, infatti, indagato, infatti, in Piemonte addirittura da Guarinieri. Dopo, mica prima. Sì. Ma comunque io non riesco a capire questa cosa, se lei avesse in mano una cura miracolosa, diciamo così, io avrei fatto di tutto, ma proprio per carità, non è che voglio fare il moralista, se c'è da guadagnarci qualcosa con il brevetto è giusto che ci si guadagni. Io non ce l'ho un brevetto. Vabbè, ma comunque sarebbe il caso di mostrarla a tutto il mondo, dire oh guardate ho scoperto questa cosa, cioè il principio degli scienziati è questo, uno fa ricerca e dice, quando si legge scoperta una cura e uno la fa vedere, la mette a disposizione di tutti perché tutti possono fruirne. Sì, forse questo però più che nel mondo reale avviene nel mondo dei puffi. Nel mondo reale mi sembra che gli scienziati abbiano un comportamento completamente diverso. Io ho fatto una cosa nel mio piccolo, poiché non avevo un immediato accesso a Nature, mentre oggi, in quanto pare, sono forse la persona più citata da quella rivista, però ho fatto la prima cosa che forse avrebbe fatto chiunque con un buon senso. Sì. Visto che avevo in mano una terapia che ero convinto funzionasse, ho incominciato ad applicarla, a cercare di salvare delle persone. Forse prima che perdere cinque anni certo, cercando non, di andare su Nature o convincere chiaro, un a cercare di salvare le persone, oppure Vannoni l'accusano a illudere le persone, perché il confine è sottile, cioè lei pensa dipende, che questa guarda, cura funzioni. L'illusione è un fattore che implica che si parta già dal presupposto che quello che si sta fornendo non funzioni, no? Per cui io illuderei delle persone se fossi sapessi che il mio metodo non funziona, e quindi poi cercherei, racconterei a tutti che invece funziona per cercare di convincerli. Nella realtà dei fatti, siccome io e i medici di che hanno lavorato per Stamina, le persone che si sono impegnate, i pazienti che sono in cura, sappiamo che la metodica funziona, quindi non è un'idea che mi sono sognato di notte, perché abbiamo visto i risultati sono stati anche monitorati, qualcosa ho pubblicato, seppur non sulle riviste scientifiche, ma lo faremo nel breve. Cellular 4 ci ha chiesto di preparare dei case report e pubblicarli, e ci stiamo organizzando per questo. E quindi insomma qualcosa dice, qualcosa avete pubblicato. Io che qualcosa abbiamo visto. Vabbè. Vannoni sa, no, aspetti, si prenderebbe una responsabilità è chiaro, di questo genere. È chiaro. Pensi a questo. Ci sono dei bambini che abbiamo in cura. No, ma infatti, ma io ci penso, io credo sicuramente. Che nessun essere umano si prenderebbe la responsabilità di metterli a rischio per provare qualcosa che pensa che non funziona. Ma no, ma io non dico che lo faccia scientemente, ma magari illudendo di poter curare. Comunque Vannoni, guardi, è la terza trasmissione che facciamo su questo tema. Lei, se vuole, è benvenuto, seguiremo passo passo questa vicenda. Adesso mi devo fermare perché il tempo scade. Intanto la ringrazio, presidente della Fondazione Stamina, che è stato con noi, Davide Vannoni. Tutto è riascoltabile sul sito radio24.it. E che dire, con Alessandro Longoni vi diamo appuntamento, anche Laura Faggin. A quando? A domani? Sì, domani cos'è? Venerdì? Sì, anche il nostro alpino Peter Bescapè sarà qui con noi, mi raccomando. Seguiteci anche su Twitter, Alino Milan, quello è il mio profilo, e a domani 6:30. Agreco, freddo e energia a noleggio. www.agreco.it con la K. Vi ha presentato 24 mattino.